È il lato più veloce per restare fermo, la teta per chi vuole vivere in eterno, e mille serrature per il tuo palazzo, un analista per non diventare pazzo, un hobby, le tue regole, una vita sana, lo yoga, la tua spesa a fine settimana, e un cane che obbedisce solo al suo padrone, gli addominali che sognavi alla televisione. Per una stanza e venderesti l'anima per la vacanza, in fretta ad arrivare non sapere dove, la vita uccide la tua vita e non lascia altrove, e tu la faccia uguale ma così diversa, che sei tornato in pace da una guerra persa, ti chiedi se c'è un posto per ricominciare, sarebbe così facile se imparassimo che le parole non bastano, che gli occasioni si perdono. E sono stato polvere in balia del vento, lasciando che la pioggia mi scavasse dentro, venuto come un ladro a saccheggiarti il cuore, la vita figge tra le dita e non fa rumore, e mentre il sole sta per scivolare a fondo, e ti allontani sul sentiero di un ricordo, e se il tuo amore è il posto per ricominciare, sarebbe così facile se imparassimo che le parole non bastano, che le occasioni si perdono. Schiavo e padrone di un'allucinazione, e non ho avuto mai nessuna voglia d'essere normale, di ridere a comando.